Mi guardo intorno e non mi sembra ci siano grosse novità. Milano è avvolta nella nebbia, però qua giù che caldo fa. Non ho bisogno della rabbia e di politica, lo sai, ma non puoi mettere un pensiero in una gabbia mai. C'è bianca neve che mi guarda e poi la gente non lo sa che dalla favola è scappata e dovrà vivere qui in città, dove nessuno se lo aspetta e mai la capirà. Ma intanto lei sonnecchia addormentata sul sofà. C'è bisogno di far la cosa giusta, bisogna farla però nessuno sa se si può fare il possibile. Ora che tutta la notte è passata si potrebbe star meglio se cambiasse ogni cosa. Decide, non pensa per te. Dove c'è solo corruzione ci può essere realtà. Dove non conta la ragione solo l'amore vincerà. Ma non capisco dove corre tutta la gente, dove va. Come farà a distinguere tra falso e verità? Allora prendo le mie cose e poi da qui io me ne andrò. Dove le cose che sognavo magari troverò. Perché non posso più restare ad aspettare qua. La fine del tuo mondo vedi sta arrivando già. E allora c'è bisogno di far la cosa giusta, bisogna farla però nessuno sa se si può fare il possibile. Ora che tutta la gente è scappata potrebbe star meglio a cominciare da ora. Forse cambiasse ogni cosa, che c'è la giusta cosa per tutti noi, la giusta cosa anche per me, la giusta cosa per tutti voi. Guardati intorno e poi dimmi se hai capito qualcosa.